Giacomo, grazie. Lo dico per quei pochi che non lo sapessero, ma questa riflessione sul diritto fraterno, che ormai è data da un po' di anni, nasce anche dalle discussioni fatte direttamente con Giacomo dentro la Fondazione Basso, è uno dei temi su cui tante volte siamo tornati. Di recente ne abbiamo riparlato a proposito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ora, questa breve chiacchierata che farò, poi sono contento di una eventuale discussione che mi interessa molto, questa breve chiacchierata sarà soprattutto diretta a prendere le distanze da alcune letture che spesso hanno banalizzato, non ovviamente il mio libro, ma il tema della fraternità. Innanzitutto la prima, una specie di premessa che voglio fare. Quando parliamo del diritto fraterno dobbiamo cominciare a considerare l'idea che non si tratta dell'ennesima curvatura di un diritto mite. Non abbiamo a che fare con la mitezza, non abbiamo a che fare con la bontà. Spesso l'ho raccontato, ma quando è uscito questo libro mi è capitato di andarne a parlare spesso a francescani da una parte e massoni dall'altra, e tutte le volte dovevo spiegare che non si tratta né di francescanesimo né di massoneria, e che invece la fraternità ha a che fare con una dimensione del bios della vita un po' più complicata. Francescanesimo, per carità, non ne sono capace, non ne ho le virtù, non ne ho, ma ovviamente il punto di vista della religione sulla fraternità è un punto di vista estremamente corposo da riattraversare. Secondo, quando parliamo di fraternità dobbiamo, tanto nello scriverlo quanto nel parlarne, metterla fra virgolette. Mettere fra virgolette un nome, un concetto, significa prendere anche, assumere anche una dimensione in cui il tema della fraternità viene da una lunga storia a cui noi ci richiamiamo. Mettere fra virgolette significa a volte accettare un significato univoco, un'altra volta accettare il carattere plurale di questo concetto, altre volte, ed è il caso nel quale io mi riconosco, accettare tutte le dimensioni paradossali. Per cui le virgolette significano il paradosso della fraternità. Io lo voglio leggere in questa chiave. Terza avvertenza, quando guardiamo la fraternità dal punto di vista delle istituzioni giuridico-politiche, dobbiamo guardarlo come una sorta di contrattempo, cioè di qualche cosa che si affaccia nella storia e poi un po' come l'anatra di Savigny. Savigny si riferiva al diritto romano. Ogni tanto si inabissa, ma poi è destinato a riemergere. La fraternità, una volta che ha fatto ingresso nella storia, con mille complicatezze, ma alla fine dalla storia non ne esce più. Ed è un problema che gli studiosi possono affrontare soltanto con gli strumenti della semantica storica, dove riemerge, perché, quando diventa rilevante, come mai sparisce. Del resto noi abbiamo una vicenda che è grande quanto una casa, che è la questione del rapporto fra la Rivoluzione francese e l'idea della fraternità, dove emerge in maniera importante. Quarto punto, che si lega direttamente a questo, quarta premessa: a che cosa ci provoca oggi la fraternità? Cioè, come mai questo concetto torna a essere rilevante, nonostante i suoi silenzi, nonostante il fatto che si sia inabissata per molto tempo, come mai torna a essere rilevante oggi? A questa questione cercherò di dare una risposta alla fine di questa breve chiacchierata. Dico subito in anticipo che vi è nell'agenda politica di questi giorni un tema che rende rilevante questo aspetto, che ha a che fare con un recupero di una dimensione planetaria, globale, cosmopolita, con qualche cosa che non può più chiudersi dentro il vestito stretto delle piccole patrie. La fraternità assume un'altra coloritura, un'altra rilevanza, riacquista vigore all'improvviso. Ora, io la leggo, vi dicevo, come il luogo di un paradosso. Non la mitezza, non la bontà, non il senso dell'affetto fraterno, ma lo leggo come il luogo che condensa tutti i paradossi rilevanti della nostra vita pubblica. E il primo paradosso che mi veniva adesso ricordato dai titoli dei libri inglesi, io ho cominciato a occuparmi di identità molti anni fa perché sollecitato dalla bellezza di un titolo di un saggio di un americano che si chiamava Glanville. Questo saggio americano, nei contenuti, per carità, insomma, però non spostava di molto la questione, ma il titolo era bellissimo ed era Identifying Identity. Un bel gioco paradossale, tradotto in italiano ovviamente malissimo anche qua. Per esempio sarebbe molto bello l'idea della metastoria, che invece viene resa con retorica. Ora, il primo paradosso della fraternità sta proprio nel gioco di identificazione da una parte e di costruzione dell'identità dall'altra. Vi è una bella ricerca storica che raccomando a tutti, che risale alla scuola del vecchio Momigliano. La Sally Humphries, una sua allieva, ha scritto un saggio splendido sul concetto di fratria, dove mostra esattamente questa oscillazione che io voglio conservare come un'oscillazione rilevante. Ce ne saranno tante altre, ma questa è una delle più significative. Identificazione, cosa vuol dire? Che nella fratria ci si riconosce dal punto di vista dell'appartenenza, quindi vi è un processo di identificazione dall'esterno, noi apparteniamo a questa fratria, la fratria è il luogo di una aggregazione antica, ma si libera all'improvviso dall'appartenenza quando si comincia a parlare di una idea della fraternità come identità di questi soggetti all'interno del gruppo. Il gioco controllo esterno è invece recupero forte di una idea dell'identità. Il secondo, se la fraternità è il luogo di una appartenenza che storicamente si è sedimentata tanto nel mondo antico quanto nel mondo moderno, questa appartenenza viene letta nello stesso momento come una sorta di presupposto, non dipende da noi, noi siamo buttati in una dimensione fraterna senza volerlo, ma subito se ne libera e se ne libera attraverso l'idea di una sorta di destino, si sceglie il destino della fraternità decidendo che fratelli non sono più soltanto quelli che sono nati con noi, il dove della nascita diventa rilevante. Ma per esempio, pensiamo cos'è la vicenda della grande religione cattolica, l'idea della liberazione dall'idea della spoliticizzazione cristiana, uso il termine proprio di Giacomo, dell'amicizia, porta a scegliere un'idea di fraternità, di un prossimo che assomiglia molto all'universo. L'idea è quella di un confine variabile in cui l'identificazione, l'appartenenza, il presupposto finiscono per ribaltarsi in una idea di destino, di scelta, di condivisione decisa, che è un'altra bella dimensione. Altre volte è condizione contro scelta. La condizione è quella che Nietzsche descrive come così fu, non è dipeso da me. Eppure, lui dice, soltanto il Dio riesce a garantirci che così fu perché così io volli. La scelta del passato eterodeterminato dentro il quale ci si riconosce. E ci sono molti passaggi. Uno in particolare, l'idea di scelta, mi colpisce. Nella ricostruzione linguistica che la grande linguistica fa, non quella che si limita a etimologie immaginarie, in un passo molto bello, tanto di Juvelin quanto di Benveniste, l'idea della fraternità nella sua struttura linguistica originaria dà luogo, attraverso passaggi, al termine inglese e tedesco free e frei. Proprio la fratria è il luogo del massimo della libertà, laddove penseremmo che si tratta tutto di una eterodeterminazione. La libertà è il luogo del massimo della libertà della scelta. Su questo, anche se credo che ci sia anche un po' di retorica, io credo che abbia ragione Jean-Luc Nancy quando, proprio grazie a questo doppio gioco, definisce la fraternità come la spartizione dell'incommensurabile, dove il massimo della libertà si sposa al massimo della determinatezza. Nella fraternità ci sono tutte queste dimensioni. E vi è un altro tema di questa oscillazione paradossale, è quello per cui si condivide involontariamente, in maniera eterodeterminata, attraverso la fraternità, ma si stabilisce anche grazie a questo un legame. Qui invado un giardino proibito, ed è quello di Roberto. Roberto ha scritto di recente un libro sull'immanenza. I due nomi che ci raccontano della condivisione del legame sono, da una parte, la presupposizione di una condizione oggettiva, l'altra è quella dell'immanenza. L'immanenza ci racconta anche di una libertà della scelta, che è tutta concreta, che è svincolata dal meccanismo della oggettività. E continuo su questi giochi. Chi mi conosce sa che è una specie di fissazione da un po' di anni a questa parte, lavorare sui meccanismi paradossali dei giochi dell'oscillazione. Non lo direi mai al mio psicanalista, ma è una delle cose su cui mi interessa lavorare. Un'altra delle ambivalenze forti in cui i concetti opposti sono complici e rivali relativamente alla fraternità è quella di una appartenenza dovuta, per nascita o per altre cose, contro l'idea di una vocazione alla fraternità. Qui il meccanismo del pensiero religioso è molto vicino al più grande pensiero liberale, che valuta l'idea della scelta, della condivisione come libertà. Vi è una sorta di strana vicinanza fra il pensiero religioso e il pensiero della libertà. Ma vi è anche un'idea più nota, che è quello della fraternità come luogo della pace e nello stesso tempo come luogo della guerra. Tutte e due nello stesso momento. Questa oscillazione in particolare rimonta alla vecchia filosofia greca. C'è un passo della Repubblica di Platone che ce lo racconta in maniera più diretta. Platone parla di una durevole amicizia, così bisogna tradurre la fratellanza nel mondo antico, filia, è lì il vero problema, una durevole amicizia in una famiglia discorde. Il gioco della discordia, il gioco dell'amicizia non possono essere separati. La fraternità è il luogo in cui noi ritroviamo le due figure classiche, quelle che antropomorficamente ci raccontano di questo gioco doppio, oscillante, fatto di dimensioni complici e rivali, e sono Antigone, e qui il codice femminile ritorna in maniera forte, e quello di Caino, e tutte e due nello stesso momento. Ci sono i fratelli, ma ci sono i fratelli che in quanto tali sono nemici, che sono nemici in maniera ancora più tragica perché fratelli e in quanto fratelli. Ora, Antigone è il dramma della fraternità a tutti i livelli, Tutti i codici che l'attraversano sono codici che ci raccontano dei due grandi modelli biblici, oltretutto, della fraternità. Dei fratelli nemici che litigano per il territorio, Romolo e Remo, Caino e Abele, o che litigano per altre cose, ma anche la possibilità, e qui il gioco dell'oscillazione interessante, di una fuoriuscita. Antigone e Caino sono la contrapposizione della fraternità come oikos, come luogo degli affetti, ma anche come polis, come la ragione in cui interviene una decisione esterna piena di inimicizia. La fraternità è il luogo della filia, ma è anche il luogo dell'inimicizia. Per cui guai a leggere soltanto la fraternità in una chiave o nell'altra. Mantenere il gioco dell'oscillazione significa ridare spazio, corpo, complessità a questo tema. E ultima di questi giochi di oscillazione, quello forse che oggi noi ritroviamo nel lessico giuridico-politico in maniera più evidente, è inclusione. La fraternità include perché mentre esclude. E lo vediamo attraverso una categoria molto semplice, che è il modo attraverso il quale, su questo ci ritornerò, il diritto si lega ad una idea della nascita che include, perché tutti non possiamo che essere nati ed avere questa dimensione del bios, ma attraverso il gioco della esclusione che è consegnato all'idea di nazione. Nascita e nazione sono i giochi di questa altra oscillazione. L'idea della nazione nasce come la condivisione della nascita, ma dentro un gioco tragico che è quello del territorio, lo Stato nazione, che è un bellissimo ossimoro, e la fraternità parla con questi giochi, con questi ossimori. Ora, cosa c'è in questa oscillazione dei codici che sono complici e rivali? Uno richiama l'altro, c'è l'uno perché c'è l'altro, ma c'è innanzitutto una idea che mi colpisce, che nella storia della fraternità quello che separa è esattamente quello che accomuna. Vi è un'immagine che coloro che sono abituati al foro conoscono benissimo, non soltanto i due fratelli che litigano, ma pensate a quella dimensione di condivisione degli affetti tra due coniugi che intanto litigano perché hanno bisogno l'uno dell'altro come identità rispetto alla propria differenza. Non ci sarà sentenza del giudice che potrà porre pace fra i due litiganti per l'identità e per la filia, perché ricominceranno un attimo dopo, come i duelists, famoso racconto, a litigare perché hanno bisogno l'uno della differenza dell'altro. Vivono di complicità rivali ed è un bel problema quale sia il giudice degli affetti, per dirlo in una maniera molto banale. È una di quelle malattie del terzo che noi andiamo spesso a cercare in Occidente. Dunque, quello che separa è esattamente quello che accomuna. I fratelli nemici sono separati da quello che li accomuna. E se volete un esempio vivente dei giorni nostri, pensiamo a cos'è il conflitto israelo-palestinese, che è il luogo della fraternità nemica. È il luogo dell'inimicizia dentro e quanto più si è fratelli. Inimicizia perché si è fratelli. Questa consapevolezza viene alla fine di questo racconto ed è forse il lato più tragico di questa ricostruzione che io cerco di fare. Del resto, se noi lavoriamo sulla categoria della prossimità, che era il modo attraverso il quale si costruiva il modello di fratria, bellissime le pagine della storia del pensiero, io penso soprattutto a Max Weber, che ricostruisce gli istituti giuridici e politici della civitas attraverso l'idea della fraternità. Max Weber ci racconta, lo aveva fatto in una certa parte anche Rudolf von Jhering, che molti dei nostri istituti, pensiamo per esempio al prestito, il prestito che oggi è rigorosamente con interessi, era originariamente un prestare, cioè un mettere a disposizione il proprio corpo e la propria forza lavoro, in funzione della prossimità. Io prestavo la mia manodopera gratuitamente al mio vicino, al mio prossimo, perché avevo fiducia che nel momento in cui ne avesse avuto bisogno lui l'avrebbe fatto. Tutto era costruito su una idea della vicinanza, della condivisione, della prossimità, che cambia di segno. Una volta è l'idea del simile, molto più spesso diventa l'idea del nemico. Pensate cos'è il grande cambiamento di paradigma del pensiero cattolico, quando si passa da amate il prossimo vostro a amate i vostri nemici. L'idea dell'inimicizia non è soltanto lo spostamento di un confine, ma è anche un declinare in maniera totalmente diversa l'idea della prossimità. Pensate cos'è l'espansione nel mondo moderno, qui l'ipermodernità è una categoria importante, rispetto all'idea dei fratelli che nasceranno e che vanno sotto il nome di generazioni future. Lì lo spazio e il tempo cominciano a declinare un'altra idea di prossimità. Ora, essere fratelli, e qui un'altra delle conclusioni che vengono fuori da quella premessa, nel gioco delle oscillazioni, essere fratelli non vuol dire, quello che noi abbiamo sempre pensato, avere senso della fraternità. Essere fratelli, condividere una dimensione e sentire l'idea della fraternità, funziona nella stessa maniera in cui, e qui il legame diventa un po' più profondo di quanto io non riesco a rendere con questa proposizione, equivalente all'altra idea della umanità, che ripresenta gli stessi giochi della fraternità, per cui essere uomini non corrisponde necessariamente a avere umanità. Questo va ricordato perché è uno dei luoghi in cui noi ritroviamo il problema tragico del presente, di questo difficile presente. Ad esempio, quando noi parliamo dei crimini contro l'umanità, chi compie i crimini contro l'umanità se non l'umanità stessa? Essere uomini e avere umanità non è la stessa cosa, perché, e qui è il primo suggerimento che io darei, perché dobbiamo lavorare sull'umanità decomponendola, decostruendola, togliendole tutte le dimensioni metafisiche e retoriche nell'ambito del discorso e restituirla a quella dimensione importante del luogo comune, quello che condividiamo. La fraternità ha la stessa dimensione. Ora, i diritti umani, quelli che ci fanno riparlare, ma non a caso, anche perché l'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ce lo raccomanda, sono quei diritti che possono essere violati soltanto dall'umanità, ma che soltanto dentro l'umanità possono trovare tutela. È l'idea di un luogo comune, di uno spazio comune, dentro il quale è possibile una cosa e l'altra, il gioco della oscillazione. In questo la fraternità è esattamente come l'elaborazione del concetto di umanità. Tutto sta dal modo in cui noi riusciamo a decomporlo per trarne davvero l'unica virtù, che è quella del luogo e del senso comune. Ho trovato sempre di grande finezza il dibattito che su questo avveniva in Europa, nell'Europa degli anni più difficili, che sono quelli fra le due guerre. Splendido dibattito fra Freud e Einstein. Freud va ricordato a proposito di Totem und Tabu. Qui invece amo ricordarlo per il dibattito su Warum Krieg, perché la guerra. Einstein scrive a Freud definendosi per conto della Società delle Nazioni con un termine che era anche burocratico nella Società delle Nazioni, amico dell'umanità. Ed è molto bello, perché scrivendo a Freud, Freud, ciancia le chiacchiere, guarda con un secondo sguardo e si pone il problema che era kantiano, che era stato posto da Kant in maniera specifica nella metafisica dei costumi. Dice, ma Menschenfreund, amico dell'umanità, dice, ma chi è amico dell'umanità? Quando l'umanità è il luogo della pace e della guerra, dell'amicizia e dell'inimicizia, quando l'umanità è spartita fra amico e nemico, chi è l'amico dell'umanità? Domanda fine, domanda importante, che noi dobbiamo riferire esattamente negli stessi termini al problema della fraternità. Ma chi è fratello quando la fraternità è divisa in amici e nemici, fra fratelli che amiamo e fratelli che odiamo? Un passo bellissimo, un frammento di Blanchot su questo andrebbe riscoperto. Ora, chi è l'amico dell'umanità? Freud non dà risposte, la risposta che viene da Einstein è più sul versante keynesiano, ci vuole una società delle nazioni. Freud sospende il giudizio e arriva ad una soluzione che vi racconto, anche se esterna al nostro problema, una soluzione divertente perché sposta il linguaggio e dice... Ma noi dobbiamo dire no alla guerra in quanto amici dell'umanità, perché la guerra è brutta, non è moralmente cattiva, non porta l'inimicizia dentro, no, è soltanto brutta. Ho chiamato questo pacifismo come pacifismo estetico, divertentissimo, magari inutile, ma sicuramente rilevante dal punto di vista del linguaggio. Ora... quando la fraternità comincia ad attraversare il linguaggio giuridico-politico, sostituendo la vecchia filia, il problema che si pone nel diritto è un problema di spazio politico-giuridico. I nomi attraverso i quali il diritto comincia a parlare questo linguaggio è la differenza che avevo appena citato fra nascita e nazione. C'è un'epoca della storia in cui tutto questo diventa visibile, si condensa in una semantica rilevante ed è l'epoca della pace di Vestfalia. È l'epoca in cui si sceglie una forma di costituzionalismo diverso, un altro diventa perdente e si inabissa, il costituzionalismo degli individui, il costituzionalismo che pone al centro gli individui. Nasce invece la rilevanza dello Stato-nazione. Qual è l'esito di questo gioco, di questo spazio politico-giuridico? Che si è fratelli soltanto all'interno di un territorio. L'idea del territorio, che noi ritroviamo attraverso il concetto etico-politico di Stato, finisce per curvare, piegare la appartenenza fraterna, si è fratelli soltanto all'interno della patria. Non ho mai trovato all'interno della riflessione discorso così importante come quello che ci racconta Elia Canetti. Io ho sempre trovato in Canetti un pensatore molto fine, profondo. Cos'è la patria? A parte il nome. La patria è un territorio dentro il quale si è fratelli all'interno, perché all'esterno ci sono i nemici. Cos'è, nel linguaggio di Canetti, se non un cristallo di massa? La fraternità diventa il luogo di una forte condivisione interna, dove la massa ritorna, non ci sono più singoli corpi, ma vi è un addensamento, ma intanto è coeso il cristallo in quanto è separato dall'esterno. Ebbene, non è l'immagine della cittadinanza? La fraternità non ha avuto, a partire da quello, una curvatura odiosissima, della quale ancora non si riesce a liberarsi. È difficile liberarsi dall'idea di una massa che non si condensi nello stesso momento e con la stessa forza. Noi, come sapete benissimo, regaliamo uguaglianza a chi non è nato nel nostro territorio. Come se potessimo aggregare all'idea della fratria sulla base di un modello, di una decisione puramente artificiale. Dov'è il cristallo di massa? Nella mia città, nella regione, nella piccola patria, nell'Europa? No, è qui il vero paradosso, dove si scatenano tutte le dimensioni paradossali della fraternità. E il diritto se ne è occupato destinando alla nascita il modello di un vestito stretto, la nazione, e ancora ne paghiamo le conseguenze. C'è qualche consapevolezza che nasce qua e là nel pezzo del Novecento, non ultimo Kelsen, quando parla della critica della sovranità legata al territorio, dove vi è questo vincolo troppo meschino. La critica che qui la fraternità ci conduce a fare nei confronti del diritto è non in nome di una astrattezza, ma in nome di una concretezza molto forte, dove recuperiamo l'idea della nascita come vita condivisa. Il secondo modello con il quale il diritto comincia ad articolare il suo discorso sulla fraternità è quello del patto. Qui sono debitore in tutto e voglio che lo sappiate, nei confronti delle nostre discussioni, Giacomo. L'idea del patto, che nasce nel mondo moderno come congiura dei fratelli, si libera dal vecchio modello del diritto su cui giurare, che ci è dato. Oggi l'Europa è uno di questi laboratori importanti. Ma perché la congiura si chiama congiura? I nomi non sono per caso. È congiura nel senso di congiura machiavellica, la vecchia congiura di palazzo che è portata alla dimensione della politica, perché freudianamente, io qui difendo il discorso freudiano, non gli attribuisco nessuna vecchiezza, anzi lo voglio riportare alla dimensione totemica, anche per avviare il discorso con il codice femminile, perché nell'assassino fondatore vi è un'idea di una congiura, di una democrazia che nasce sul patto giurato dai fratelli, perché c'è sempre l'assassinio di un padre. Ora, la democrazia non si è ancora emancipata dall'idea di una congiura senza l'assassino del padre. Non soltanto la rivoluzione francese. Dov'è il re decapitato? In quale luogo del sistema è il re decapitato? È dentro o è fuori? Non è la vecchia storia della vittima sacrificale? In che punto collocare il re che deve essere ucciso perché fondi la democrazia diversa? Beh, la rivoluzione francese questo gioco sacrificale se lo porta dentro fino in fondo, lo trasforma, non lo elabora ma lo trasforma, così noi abbiamo che la volontà generale è la volontà di tutti, ma non è la volontà di ognuno. Del resto, le nostre immagini televisive ci mostrano il dittatore di turno che viene decapitato. Può nascere una democrazia fraterna quando i fratelli si portano dietro il senso dell'assassino fondatore? Qui la vecchia idea freudiana del totem che le forme della società si portano dietro, qui sì, va corretta. Non si tratta, a mio parere, del solito imbroglio degli uomini nei confronti delle donne, dei fratelli nei confronti delle sorelle. Perché se noi arriviamo ad una totale decostruzione dell'idea della nascita, sì, il problema dei nomi non è irrilevante, non abbiamo il nome diritto sorerno, abbiamo il nome diritto fraterno, ovviamente, ma se noi liberiamo il senso della fraternità e lo riportiamo alla dimensione più vitale, più forte, più significativa, che è quella della condivisione della vita, beh, sono fratelli e sorelle che condividono la nascita. E l'assassinio è un assassinio che pesa sull'uno e sull'altro. Ci sono varie declinazioni del sacrificio. Per esempio, in molta parte del pensiero femminile io ho ritrovato l'idea che l'assassinio fondatore, seppure produce democrazia, comunque lascia orfani. È l'idea dell'orphanage che ritorna persino nel codice di genere. Ora, alla fine, io credo che bisogna ancora fare i conti con questa dimensione freudiana. Corretta, ma bisogna fare i conti. Bisogna fare i conti perché il vero problema che noi ci troviamo di fronte è condividere una decisione, un patto d'ora in poi, in cui non ci sia alcuno spazio per l'assassino fondatore, né a livello politico né a livello religioso. Questa è la sfida con la quale il diritto ci chiama a fare i conti. Ora, a che cosa ci provoca per arrivare proprio alla conclusione? Beh, io credo che bisogna decomporre la metafisica, come dicevo, bisogna evitare la retorica, restituire la vera dimensione della condivisione alla esistenza uguale che nasce dall'idea dell'essere nati. Recuperare, non nel senso sacrificale con il quale i codici moderni, pensate al codice Napoleone che si apre con la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, lì dentro c'è l'imbroglio, ma con un'altra idea molto più forte della condivisione. Questa idea, che è sempre eccedente rispetto alle sue forme, io la ritrovo in un passo aristotelico, che vorrei ancora una volta sottolineare e riportare alla sua dimensione problematica. Aristotele parla del rapporto fra l'equivalente della fraternità, che era la filia, e la giustizia. E nell'etica nicomachea, il 1155a, per chi avesse questa curiosità, dove Aristotele pone un rapporto fra la giustizia e la filia, e dice: in una società in cui c'è filia, la filia qui è in senso metaforico, invece Aristotele spesso, è uno che ci lavora bene col cesello, ha distinto la filia erotiche, la filia etairiche e la filia nautiche. Quella interessante è la nautiche. Quello che nasce fra compagni di viaggio. Quanti viaggi sono finiti con il nostro vicino che ci prometteva che si sarebbe fatto rivedere, che quel legame non sarebbe mai finito. Aristotele lavora su tutti questi sensi della filia. Alla fine il modello è che la filia è quella che può fare a meno della giustizia, mentre quando c'è giustizia, lui dice, avremo sempre bisogno di filia, di amicizia. Ora, cos'è la giustizia in Aristotele? È essere in amicizia con se stessi. Ora, pensate al se stessi. Può essere l'individuo che si porta dentro l'inimicizia, esattamente come la fraternità. Si porta dentro il modello del fratello nemico rispetto a se stesso. L'idea del nemico non è fuori, è dentro. Pensiamo al se stessi come la polis. Pensiamo a se stessi come il luogo non di un'esclusione, ma come il massimo dell'inclusione possibile. Pensiamo ad una idea in cui non c'è più bisogno di parlare di cittadinanza, da tradurre in chiave di fraternità. Pensiamo ad una idea in cui il se stessi diventa il luogo planetario. Beh, il modello delle guerre civili ci scopre responsabili e nudi di fronte alle nostre responsabilità. Quindi la fraternità cos'è se non il noi stessi dentro i quali noi dobbiamo ricominciare a fare i conti. Alla fine, in una parola, fraternità è luogo comune. Grazie.